tornato così campato in aria, perché se poi tra vent'anni me ne ricade, per dire, magari riprovo sulla 5, capito? Che poi il progresso sta sempre andando avanti, è evidente che qualcosa c'è. O se di là si dovesse nuovamente rompere e non mi dà soddisfazione, ripiego sulla 5. Va bene, ma poco roba il guadagno, dice che c'è 4 e 5 decimi di guadagno, ci sarà 5, ma a me non mi quadra, va bene. Oh, loro dicono così e te lo scrivono anche, però non a me sinceramente non mi è mai piaciuto e non l'ho presa più. Per quel motivo io preferisco fare a tubo, piglio la mantova uno, cazzo, c'è una bomba di saltella, capito? Per me, io parlo di me, dopo ognuno la pensa a modo suo, capito? Tutto lì, vabbè, ma vuol dire che tu devi accontentarti di ciò che hai preso, se a me non mi va, te ti va, tu pigliati quello che va a te, Mario. C'è solo per la questione dei radiali, un paio di radiali si trovano di quelli petrolissimi, eh? Ehi, si trovo sì. Petrolissimi, quello, se li dà lì, o perlomeno quello delle cocce, li facciamo arrivare i radiali nuovi a... i radiali, quando qualcuno andava a cercare i radiali, quello li portava, capito? Se la metteva, adesso non so se ci sono ancora, boh, non lo so. Quello della coccia però ce li aveva sempre, ecco, tutto lì. Adesso non so se ci sono oppure no. Ma boh. Comunque ogni tanto stai uscendo spettacolo, ecco. Che tanti di questa saletta che ci deve essere qualcosa che non va, vorrei ascoltare un poco di quel prodotto per cose elettriche. Vabbè, ma arrivata l'ora io chiudo, dai. Ci sentiamo domani, virtualmente, se Dio vuole, dai. Grazie alla cattivazione, buon proseguimento di serata. Ci sentiamo Mario, chiudo. Ciao Mario! Non sei uscito per niente comunque. Vabbè, chiudo Mario, ciao ciao. Ciao Giovanni, ciao ciao, alle prossime! E ok, adesso sei uscito, d'accordo, ciao Mario! Hola, c'è qualcuno qua? Sto vediamo se ci deve l'altro negozietto, sto... rispondere al telefono, e cosa si parlava del bello Vela? Si parlava di cose, pane per bambini. Ah, e vabbè, anche quelli ci vogliono, anche quelli ci vogliono Vela. Siamo stati anche noi vicini e l'abbiamo indossati un po' tutti, diciamo, dai. Guarda, io non so quanti anni hai tu, ma io per quanti anni ho, io a me non c'erano, non esistevano, e c'erano le fasce tradizionali che ci facciavano tutto e praticamente rimanevamo come le mummie immobilizzate. Gappa, si conferma, io sono vicino alla cinquantina, penso che avete conosciuti. E allora non hai conosciuto il pannolino, quando eri piccolo tu non te li hanno messi. No, le fasciature. Ma tu hai detto Gappa, abbiamo usati tutti quando eravamo piccoli, i pannolini no, ma hai usato le fasciature. Gappa, perlomeno per l'età mia le fasciature, ma ho conosciuto anche i pannolini, dai. L'hai conosciuti, li avrei conosciuti soltanto, grazie a Dio li conosci anche adesso, ma tu hai detto, li abbiamo usati anche noi da piccoli, e no, usati no. No, usati no, quello è vero, mi correggo, usati no, però qualcuno l'ho messo anch'io. Vabbè, l'hai messo a qualche altro, ma se tu c'hai quasi vicino alla cinquantina, vai tranquillo che tu non hai trattato a chi non esiste nel manco, non ti dare nel manco, fatto via capo. Quello è vero, perché mi ricordo la buon'anima di mamma, andava addirittura a portare Rosello a lavarli quegli straccetti lì, Papa, che c'era la fascia, che si metteva sopra, c'era la triangolina, il panno fatto di razza, da poi era lo triangolo, il cosiddetto triangolino, e poi sopra la fascia. Cappa di rogero. Allora vedi, quindi se tu hai la cinquantina, difficile di chi superiore si tiene che cose a chi... Mi pare che... Boh, adesso guarda, sinceramente non lo dico neanche, ma non lo so, forse non ce n'era manco negli anni 70, Può darsi pure, in effetti ha anche ragione, forse negli anni 70 non esistevano ancora, Oh, sempre se non mi sto sbagliando, ma mi pare che negli anni 70 ancora non esistevano, forse... Probabilmente alla fine, a cavallo con gli anni 80, hanno iniziato a uscire questi pannolini, Probabilmente, non voglio dire una cazzata, ma mi pare, se non mi metto mai, Gappa. Anni sono passati, è un po' difficilotto ricordarsi l'anno esatto dei pannolini, dai. Ma se mi sto sbagliando, mi sto sbagliando di poco, Ma vai tranquillo che i primi anni 70, non mi ricordo nemmeno i primi anni 70 non c'ero, poi i primi anni 70, orarsi pure che cosa c'è a vera, ma forse era ancora ma pochi pure, Infatti, noi tutti si potevano permettere i pannolini, la verità si dica. E così è. Ma non sai perché? Perché al ricordo di ciò qua che le botte di quegli anni mi pare che mia sorella usava ancora quella roba lì. Cava. Così è. Sono rientrato. Cava. Positiva. Brecco. Avanti il Brecco. Vito Giuseppe. Sì, buonasera, giusto l'informazione. Avete sentito Giuseppe stasera in modulazione? No, io l'ho sentito a tornare, ma Giuseppe no. Pari positivo, grazie per la dritta e arrivederci. Ciao, no, te ne stai tornando. Se non c'è Giuseppe, ti dovevo dire una cosa. Sì, tornato adesso e te ne stai già andando. Gamba di positivo, padrone. Dimmi, cosa volevi, dimmi. Niente, se non poteva dare incontro alla radio. mi fa un controllino adesso, per gentilezza. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sempre uno che riportavo 10. No, aspetta, Giuseppe. Aspetta che avevo inserito l'SQR, rifai tutto da capo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, controllo radio per me, grazie. Allora, adesso sei 7. Vito, 7 adesso, vai. K di positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, controllo radio per Giuseppe, K. 9, 5. E la radio com'è? Bellissima, va bene così. K di positivo, grazie Vela, quando senti Giuseppe, dimmi tante grazie da parte mia. K Giuseppe, quando sento tornare glielo dico. Molto bene, quindi sta arrivando o Santiago 9 più 30 più 60 più 50 e radio 18 K. Cioè, ma mi devo pure, con un pallottoliere a contare anche il tutto, no? Sì, sì, sì. Buonasera, Falchetto, buonasera. Sì. Mi dice le sue coordinate come gli arrivo, K? K di Rogero, 925, radio a bomba. Molto, molto, molto bene, molto obbligato, grazie. Grazie. Prego, figurati. Antonio, ben entrato. Qua passi da 920 a fondo scala. Di Giuseppe? Va. Anche da me. E io? Io? Ti sto per 30 qua, fai te. Lo stesso segnale di cose, Giuseppe. Gava, gava. Buonasera Massimiliano, scusami, se non ti ho salutato, nessuno mi ha detto che eri qui in frequenza. Ciao Massimiliano, ben sentito e cordialità come sempre, K. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato anche a te. Niente, da parte mia il movimento qua, lo smitter è incollato a 9.30, da parte mia. K, quindi stiamo uscendo benino, dai. C'è un break, ho fatto il carro. Avanti il break. Sto uscendo bene. Prego. Avanti il break di Yogi, K. Aspetta un secondo, Yogi, Giovanni, un secondo, giusto, secondo. Che c'era questo ragazzo di Olmedo, l'avete completamente annientato. Controllito, qui sta arrivando Santiago 1 e Radio 2, dai, già va bene. Positivo, salutoni da parte mia, in ruota c'è Bulldozer, Giuseppe, Vela e Antonio, avanti per i saluti all'amico. Positivo, ciao, non ho capito il tuo QRZ, comunque dai, ti saluto, buonasera, ben entrato. Ciao anche a Giovanni Tui, buonasera, ben entrato anche a te. Avanti, tornalo. K di positivo, grazie Massimiliano. Salutoni all'amico che è entrato, saluti anche a Yogi, che riesco a tirare fuori abbastanza bene. Però l'amico qui nella mia postazione Santiago 0 e Radio 0, K di positivo, avanti Vela se riesce a copiare l'amico. No, negativo, non riesco a tirarlo fuori, nulla. Almeno hai capito, giusto? Per parlare almeno stavo volando, lo stesso passo io. Capa, quelli che arrivano da Ghero e da Omero, li ricevo solo in automobile a casa, niente, direzione. Ghero per me è negativa. Attento la regola di Omero. Perché, come si chiama? K, attento proposito, tu bella, com'è il tuo nominativo, camion? Trazione Europa, operatore Carlo. Ma va bene, va bene. Riprendi il bulldozer. Facciamo entrare Giovanni Iovi, dai, ha fatto il becco, abbiamo aspettato un parcheggio. Avanti Giovanni. Ciao a tutti, buona serata. Tutto bene? Spero di sì. Ciao Yogi, tutto bene, salutoni. 100 euro e siamo ancora meglio. Ehi, dove sei tu se ne rivedimo? Dove sei tu? Cappa di positivo, se sono 300 facciamo 100 a me, 100 a me, dai 100 a bulldozer e non mi dice a nessuno. Cappa, cappa. Ehi, 400 mi regalo qua anch'io. Cappa di positivo, Yogi, 4 tettoni e tiriamo fuori il baracchino. Insomma, siete tutti in genere di là. Passi, Giova. Passi, Vigliano, sono a cosa? Sono a Pradanieta. E tu, a casuccia? Io sono, dove lavora tua moglie. Allora eravamo vicini, me ne sono appena andato. Io sono lì, là. Non proprio dentro, dentro quel locale, però lì vicino, diciamo, La tua suocera. Capra di Roger. Oh, sì, ma aspetti, ci beviamo anche una cosa, tra una mezz'oretta sono lì. Io sono qua adesso, come, di là. E allora ti faccio sapere. Via. Un attimo di bianco per me che prendo la pupa di uovo. Cappani positivo, fai che tu puoi chiedere l'amico di Totubella se ancora c'è ancora in modulazione, Cappa. Attento l'amico di Totubella, se ci si cambia passo. Adesso sono arrivato all'inizio della 4 cortile di direzione Sassari, sono in movimento, quindi vado e vengo, non so se riuscite a sentirmi a Sassari. Cappa, io ti sento benissimo, tu l'hai copiato Giuseppe? Io lo sto tirando fuori Pio Pio, qui, mi puoi chiedere se per gentilezza mi può dire come arrivo nelle sue coordinate, Cappa. Attento l'amico che sta per prendere quattro corsie, come ti arriva Giuseppe tornato da Sierra Sierra, cambio? Giuseppe mi arriva a Colunga, Santiago. Santiago 7, Radio 5, grazie l'amico di Totumella, Cappa, ti ho copiato anch'io in questo momento, e grazie Parchetto per il Ponte Radio, Cappa. Cappa, e io come ti arrivo l'amico di, delle quattro corsie, cambio? Adesso mi sento tutti molto bene perché la zona è libera, quindi la radio la sento a tutti. Amico, le quattro corsie, dai, te si chiama Carlo. Ehi, vabbè, hai dove sta prendendo le quattro corsie. Vabbè, ma si chiama Carlo. Io lavoro in aeroporto. Io chiamo quattro corsie. Attento Carlo, se ascolti me, se ascolti la velina che ti fa la chiamatina, cambio. Carlo, lo senti a vela? Vela molto basso, se la persona che ha modulato un po' prima di te. Chiaro, a me è quattro corsie, ma arrivi tutto. Hai detto che gli arrivi basso. E io come ti sto arrivando, Carlo? Radio buona, molto buona, radio 5, Santiago di 8, 9, oscilla un po' perché sono in movimento, comunque buona la tua ricezione, anzi direi ottima. Cappa, ti ringrazio, Santiago 9, oscillante, 9, 5, radio 5, bene bene, riprendi Giuseppe. Cappa di positivo, qui nella mia postazione l'amico Carlo arriva con un Santiago di 6 e una radio... Però se pian piano, come ho capito io, si sta avvicinando verso Sassari, già lo sto tirando fuori abbastanza bene. Io ve l'appoggio. 5, Pierpaolo. Buona carica, buon tutto e mi auguro di risentirci più tardi. No, guarda, è il tempo di sbranarmi questo piatto lì, Nicola, perché io sono da ieri che non mangio, io ho soltanto il pranzo, quindi adesso vado, lo sbrano e torno. Cappa Pierpa, buona carica, vai. E niente, buon appetito, come si dice quando siamo seduti a tavola a tele, dai. Vai pure tranquillo e la pasta vuole mangiata calda, vai. Via, buona carica, vela, dai, ce la ascoltiamo dopo. Via, ma si vediamo. Anche io adesso vado a fare carica, dai, ce la risentiamo dopo. Giuseppe, comunque una schioppettata, alla grande. Ok. Cappa di positivo, bombolo. E buona carica anche a te, buon tutto, dai. E mangiate tranquillamente, mangiate tranquilli, con calma, perché guarda, la pasta è un piacere. La mangiata calda e gustata, forchettata dopo forchettata. Ci sentiamo a più dopo, dai, avanti l'amico Paghetto. Sì, cappa, tu, buona carica, buon tutto e ce la riascoltiamo a dopo. Avanti Massimiliano. D'accordo. Caparrosio, dai, buona carica, ciao, ci sentiamo più tardi se coincide. E là, ci avevo a pupa in braccio e non potevo rispondere. Cappa, avanti, Pomponio. Buonasera a tutti, buonanotte a chi fanno da mangiare. E cappa di positivo. Massimiliano, già che ci sei, visto che il braccio è in pupa, la pupa, Dio la benedica, un bacetto anche da parte nostra, Cappa Rogero, gli abbiamo dato due da parte vostra. Cappa, cappa. Ia, ia, ia. Niente ne sai, ma per Paolo ha chiuso, così è. Sì, carica, sta caricando. Non volevo chiedere se dovevo non salire su. Niente ne sai, che chiuso. È negativo, però è la carica di Pierpaolo, a quanto ho capito io, Massimiliano, dovrebbe essere molto breve. Dovrebbe essere qui, aprami. Ma guarda, vabbè, se ci sono ancora. E radio. Ma dove c'è l'istituto? Anche là non controllo. Ma è passaggio. Guarda, vedere se cacchia altri 2, 3, 4, 5. Un po' graffiato. Se trappa non la si vede. E ora vai. Fa passaggio, va bene? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma è roba il microfono sicuramente, anche lui migliora, ma Luca vuole male, ti rendi. Come è roba di alimentazione, lo sa. Roba di alimentazione? Sì, si fa, si fa. Vorrei provare un'altra cosa. Ma va, prova. Ma è possibile sia il microfono? Comunque mi metto la tavola, perché? Sì, confermo. Allora, guarda, adesso mi si è portato la macchina, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto va bene, cosa era? La macchina spenta, ce l'avevo. Che fa l'alimentazione allora? Troppo assorbe. Non è troppo assorbe, la batteria che per questa macchina è troppo piccola, capito? È da 45 ampere, la devo portare almeno a 60, perché la sua originale è 60. Solo che mi si è bruciata e momentaneamente le ho messo questa, capito? Un problema da assorbimento comunque, dai. Non va via. Bene, bella. Io penso, a me mi è capitato una volta, baracchino, qual è l'altro? Il Midland. È 34. Ho frappato, non capivo il motivo. Ho toccato praticamente vicino al filtro, c'è un tipo un trimmer lì, no? No, appena girato, pensavo che era una per attenuare i disturbi, invece era la modulazione quello. E non è poi ci riuscito a rimetterlo a posto, piano, se per un momento mi diceva tutto trattato, come ci vedi tu adesso? Fattrulli. Sicuramente questa è la batteria che non ce la fa, capito? Esatto, sicuramente meglio aveva fatto la tensione più bassa, brutto. Ma se capita un giorno, per poterlo oggi sentire. Un po' come la vittima e va a scorreggi. No, io siccome c'è la mia figlia sta giocando col filo del mic. Sicuramente ho detto, ma magari sta sentendo tutto. Allora, ti dice di basso, o tu la stiamo lasci basso, la stessa, come? Facciamo una schifo, senza offesa, Giuseppe. Lei vale qualcosa, esce tutto con la tornata, non si capisce niente. E adesso come sto uscendo? Mi sono una bomba, non attaccare, non va bene. Ma tu mi mandami la fanculo, fai quello che vuoi. Però non va bene, c'è qualcosa che c'è un disaccordo tra lui e lui, capito? C'è un disaccordo. E poi qua vicino cosa ne fai? Finché devi parlare lontano, ma io so fare che devi uscire con i batti su e basta, guarda. E cappa di positivo, adesso sto uscendo bene. Ottimo, va benissimo. Sai che cos'era che dava il turbo, che non mi sono reso conto che era acceso, perché lo stavo facendo scaldare, Luca. Giulio, dimmi, qua, cos'è? È l'S9 che mi ha fatto ritorno. Cappa. Sì, 9.40 picchino di 50 qua. Cappa, aspetta che mi accendo di nuovo l'S9 che ti faccio sentire il ritorno, aspetta. Vai, riprendi, fa che. Cappa di Roggero. È così. No, ma c'era anche Pomponi, avanti Pomponi. Poco fortuno. A persi la berretta. Anche quelli mi fregheranno adesso. A quale c'hai, Luca? A quelli in pelle? Quello in pelle, sì. Guarda, la divisa, te l'ho detto, c'è tutto dentro. No, no, buttali via quelli in pelle, guarda che ci sono dei guantini, costano 2 euro, che hanno la rivestimento in plastica, usa quelli che sono leggeri, leggeri. Fatto, guarda il break. Ma se via, sposati sull'11, grazie. Ehi, che fai sull'11? Vai sul break, so se ci sentite di sbatter. Oh, vai sul 40. Anche se non è di qua andare, Massimiliano, non c'è problema. Se va su, ci sentiamo di sbatter. KK, hai capito, Lucarie? Usa quei guanti che sono ottimi per quel lavoro lì. Qua ci vogliono loro. Ci hanno dato tutto, non ci hanno i guanti. Ci vuole la mascherina, deve dare tutto. Tanto io casco, non ne uso, non ha tutti in usa. Poi può venire contro lo che vuole. No, no, tu ci vuole usare il casco. Attenzione, si rischia multa, eh. Ma dove la futti? Cava, cava. Riprendi, Giussi. Prego. Sempre Carlo, a Sassari adesso, come esce qua in città la radio? Beh, è migliorato Carlo, vai. Buono, io sono quasi arrivato, vado a fare un po' di carica perché domattina li attacco molto presto. Buonanotte a tutti e ci sentiamo alle prossime, grazie per i controlli. Ciao Carlo, buona carica, buon tutto, ce la riascoltiamo tutta le migliori. Avanti Luca per Carlo. Ciao, ciao Carlo, vai, anche a te, buonanotte, buona giornata per domani. Alla prossima, ciao ciao. E così è Luca, ti compri un paio di quei guantini, guarda, e fai 13. Sì, ma infatti compro qui, adesso vediamo un po'. Vediamo un po' che fare, perché sennò è un bel casino. Passo questo tagliettino qua, è una rottura di mare, a salare adesso, boh, sono ci passa. Madonna. E lei partito fisica a me. Lo so. Lo sai dove vai a comprarli? Salendo per la polizia, visto che c'è quello che vende le vernici. Costano 2 euro, di tutte le misure. Da loro, color in color. KK. Vai lì. Ah, cos'è la tua sinistra salendo? Dopo cos'è? Idraulico, quello mai idraulico. Quello che aggiusta le macchine, dai. Sì, sì, mi conosco, mi sono fatto la pittura da quelli. KK, e te ne prendi lì, entri e te ne prendi, vedrai che lavori meglio. Però piuttosto dovresti metterti nei cerutti momentaneamente, e poi ci fini i guanti, capito? KK, vabbè, li compreremo. Dalla prossima mi uso quelli. Poi ce li ho messo un paio, adesso non mi ricordo, ce li ho un paio fatti, di quelli plastificati. E ho presi per, poi il cantiere, poi non mi ricordo per cosa, mi sa per quando facevano l'intervacco. Cappa, perché quelli ti consumano le dita, ma la sorte, quelli di pelle si inzuppano di acqua dentro e non hanno senso, capito? E poi i pietrini, ma la sorte, sono malediti, eh. Ma sono accorto Giuseppe, ma fa che? Madonna, lui ha. E vabbè, ma domani lunedì, ma domani. E poi c'è lunedì. Oh. Ma noi facciamo poche ore. Cioè poche, 6 ore, se no guarda, ti ammazza il tuo giorno. Infatti mi avevo proposto di farne 6 di ore. Ma 6, 8. Dalle 2, cioè dalle 8 alle 2. E poi, no aspetta, dalle 8 all'1, dalle 2 alle 5. Ah, fatti 6 ore, fregatene, fatti 6 ore Luca, lascerebbe lì. Se mi metti qui dentro la Romesi, Barò. Ma te l'hai dato, ma il contratto come l'hai fatto? Te l'hai letto il contratto? Fuori busta me ne danno. Se sei sicuro che te ne danno fuori busta, potresti anche farle. Ma devi essere sicuro però. Gaffa. Ma se vogliamo un po' là. Io purtroppo ne ho bisogno di lavorare di soldi. Fare un sacrificio. Sono un faccio adesso. purtroppo loro lavorano male, molto male, essendo del comune, il comune non gli manca niente, soprattutto soldi, la cacca le cose di comprare la betoniera a scoppio, la moto a scoppio. Sono, guarda, fanno pietà. Spendono soldi in cazzate e in cose che sono utili da utilizzare in cantiere, non le prendono mai. È una vergogna, guarda.